12. La povertà e l'umiltà. Un concetto critico suggerito al padre della filosofia storica alemanna dall'esame del genio monastico contiene materia per più volumi. Mi intenerisco, dice il profondo Herder, alla vista di quella soave solitudine delle anime che, stanche del giogo e della persecuzione dei loro simili, trovano in se stesse il riposo e il cielo. Ma appunto per questo s'appalesi più energico il nostro disprezzo per quell'isolamento generato dall'orgoglio e dall'egoismo che, schivando la vita attiva, ripone i destini del genere umano nella contemplazione, nell'apatia, nella penitenza. Si pasce di fantasmi e, lungi dallo spegnere le passioni, fomenta la più vile di tutte, un orgoglio tirannico e indomabile. Siano maledette le apologie che alcuni ciechi o perversi interpreti della scrittura fecero del celibato o della vita inerte e contemplativa. Maledette le false impressioni che un'eloquenza fanatica può scolpire ancora nel cuore della gioventù, dopo d'aver per sì lungo tempo deturpata la ragione umana. Generoso disdegno! Quanto di positivo sto per registrare qui appresso in proposito, non ne sarà che l'umile ma verace commentario. La patria di Enrico VIII e di Shakespeare, un vocabolo espressivo che manca alle altre lingue, priestcraft, suona frode pretesca e prova che il clero è dappertutto infetto dallo stesso vizio. La lingua nostra ha un'altra particolarità, applica la stessa denominazione al negoziante e al monaco, hanno entrambi una professione. Far voto di povertà. Che cosa significa ai nostri giorni? Uno dei due. O per oggetto di lucro trafficare sotto la cocolla, o al coperto dell'invidia delle pubbliche imposte godere in pace, imperturbabile, le sostanze proprie e quelle d'altrui. E le monache? Come osservano questo voto solenne? Vestono esteriormente una tonaca di ruvida lana, ma però di sotto fanno uso della biancheria di tela finissima e pei fazzoletti di quella di Olanda e anche di Battista. Nei giorni festivi portano sospese al fianco delle corone incastonate in argento e sovente dorate. È ben vero del resto che l'abito non fa il monaco. Il voto di umiltà vieta loro il letto a spalliere di ferro, ma quello di povertà concede 3 materasse di morbida lana, origliere imbottito di piume e parato di merletto antico. Il cortinaggio, qualche volta magnifico, sta sospeso ad un anello di ferro attaccato alla soffitta. Non possono tenere oggetti di lusso sopra i comò, ma in un armadio a muro tengono riposto prezioso vasellame e la più antica porcellana di Cina. È proibito di ritenere molto denaro nella propria stanza. Avvi però nel monastero un luogo chiamato il deposito, dove tutte separatamente conservano il loro numerano. In quanto al vitto, l'astinenza loro non la cede neppure a San Giovanni il digiunatore. Mangiano 4 piatti la mattina, uno dei quali è sempre di pasticceria, ed un piatto la sera. Il pane di sopraffina qualità. Hanno il costume divoto di non mangiare frutte fresche il giorno di venerdì, il che però non impedisce che le mangino giù le bate a discrezione. Possono fare un complimento, ovvero mancia, di ducati 4 al mese. La superiora può darne sino a 8 e il vicario può disporne fino a 12. Volendolo fare di centinaia, fa di mestiere premunirsi di un permesso che si ottiene dalla città eterna. Ciascheduna delle monache ha un particolar santo protettore, cui suole celebrare una gran festa. Questa solennità richiede più settimane di cure e di preparativi. Tutte fanno a gara di renderla più splendida contraendo debiti in mancanza di denaro o sciupando il loro avere in oblazioni ai preti, in mance ai monaci, in complimenti ai chierici che uffiziano in chiese e servono le messe. Usano lo stesso all'occasione delle loro feste onomastiche, né è a dire lo scialacquo che vi si fa nei giorni di Pasqua e di Natale. Ma l'occupazione principale, la summa rerum del convento, sta nella confezione dei dolci. La confezione dei dolci è nei monasteri di donne ciò che la focaccia è nell'harem. Ciascun monastero ha la sua specialità ed una particolare rinomanza. Questo è famoso per le sfogliatelle, quello per le barchiglie, l'altro per la pasta reale, un altro per i biscottini, per le monacelle, per i mostaccioli, eccetera, eccetera. per una sfogliatella impastata dalle carmelitane della Croce di Lucca, il napoletano di buon gusto rinunzierebbe alle delizie dell'ananasso. Ogni monaca è padrona del forno per fare dolci durante una giornata intera, la quale comincia dalla mezzanotte del giorno precedente. Ma, come talora non basta quell'ufficio un solo dì, la monaca ricorre al secondo e qualche volta al terzo, ragion per cui le povere converse si muoiono di sonno e parecchie di loro ne cadono malate. Più di una vecchia incanutita nel chiostro disse a me stessa di non aver veduto ancora le funzioni della settimana santa, non avendo in quella ricorrenza avuto giammai libero un momento per entrare nel coro e guardare in chiesa. Un monaco che in sul venir della Pasqua faceva il quaresimale condito di sacra erudizione e di facondia, vide l'uditorio suo scemare di giorno in giorno e finì col restare in chiesa poco men che solo. Le monache erano occupate a preparare le loro pasticcerie. Il predicatore, non avendo vedute una volta che sole 6 uditrici, mentre aveva diritto a più che 70, interruppe l'orazione e scese dal pulpito a più riprese borbottando: «Che bel gusto di predicare a delle saracene!» Nella distribuzione poi dei dolci i parenti hanno sempre la peggior parte. Sapete perché? Per consiglio dei preti. I preti e i confessori, più che ad altro evangelico precetto, fedeli a quello che dice: «Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me». Se qualcuno viene a me e non odia suo padre e sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli e le sue sorelle e la sua vita, non può essere mio discepolo. Fedeli, dico, a questo precetto, snaturarono gli affetti domestici di quelle donne, persuadendole che padre, madre, fratello e sorella e vita delle penitenti sono essi loro esclusivamente. Per tal modo, isolate, esse divengono più accessibili all'impero dei loro padri spirituali, i quali frattanto insaccano la più scelta e più lauta dispensa delle pasticcerie. Sul proposito del disamoramento alla famiglia, mi tornano in mente delle anomalie di cui piacemi addurne qualcuna. Due monache, sorelle, trovavansi un giorno a far l'orazione mentale nel coro, misurando, come ai tempi del Decamerone, l'ora della preghiera con la clessidra. Avevano esse un fratello solo, impiegato nella diplomazia. Fu suonato il loro tocco alla porta e la conversa corse a vedere di che trattavasi. Giungeva loro un messaggio funesto: compromesso col governo nella sua gestione, quel fratello erasi bruciate le cervella con una pistola e morì all'istante. «Chi è? Che c'è?» domandarono alla conversa, ritornata col volto pallido. «Il servitore del signor principe. Che cosa vuole? Il vostro signor fratello!» E qui la conversa si fermò. «Santi Dio, volete finirla? È forse malato?» «Maramè!» esclamò la conversa. «È morto!» «Oh, Madonna del Carmine, morto! E come è morto?» «Si è ammazzato!» E narrò il fatto. Si guardarono un momento in volto le due sorelle, sollevarono gli sguardi al cielo congiungendo le palme, indi, col massimo stoicismo: «Anna!» disse questa. «Camilla!» esclamò l'altra. «E Dio l'abbia in gloria, l'ampolla scorre, terminiamo la meditazione». Non riparlarono del suicidio del fratello, se non che sedute alla mensa comune, fra il lesso e l'arrosto, secondo il detto volgare. Ad un'altra suora giunse per lettera l'annunzio della morte di sua sorella. In quel momento suonava la campana del refettorio. «Non divulgare per ora questa disgrazia», disse la suora all'orecchio della conversa. «Mi converrebbe astenermi dal pranzare stamani e per l'anima de paterna me morre fam, mi muoio di fame». Tornando al voto dell'umiltà, dirò che rare come le mosche bianche sono le monache le quali non facciano insolente ostentazione dei loro nobili progenitori. Non ricevono le educande se non hanno appartenuto alle famiglie degli antichi sedili di Napoli. San Gregorio Armeno è dai tempi remoti consacrato a quelli di Porta Capuana e di Nido. È così perciò che due giovinette, figlie di padre plebeo e di madre nobile, non sono state accolte nel monastero prima di avere formalmente promesso che avrebbero d'allora in poi ripudiato il cognome paterno e adottato quello della madre. Nelle loro contese vengono sempre a discussione di chi è più nobile dell'altra. Voi non avete avuto che un conte pezzente e anche quello cadetto di famiglia. La buon'anima del mio Trisavolo, il tale, riuniva nel suo scudo tutti i titoli di feudatario: principe di questo, duca di quell'altro, marchese di quest'altro, conte di sopra, e di soprassello fu consigliere del re cattolico e grande di Spagna. È vero questo, ma discendeva da razza bastarda, lo sanno anche i piccirilli. E l'arma vostra, quante brutture non porta di fronte? Ve n'erano di quelle che, allorquando passar doveva una processione, reclamavano il primato in tutto, financo sui belvederi. Al loro arrivo, le altre dovevano cedere il posto in continente, né esitavano di far alzare quelle che ascoltavano messa, se per caso avevano occupato un posto che loro aggradisse di più. Un predicatore severo e propenso al cinismo si prese l'ardire di riprendere le monache sul tenore di vita che menavano. Gli mandarono a dire che non dovesse trattare in quella guisa le figlie di principi, duchi, conti, baroni napoletani. Il Barnabita, giustamente indignato di quell'impertinente avvertimento, nel fare un giorno alla presenza di numeroso uditorio il panegirico di San Giuseppe, schiccherò bella e buona l'imbasciata che le umili serve del Signore gli avevano mandata. Vi sono infine taluni chiostri dove la superiora si fa baciare il ginocchio ed altri ancora dove si fa baciare, a guisa di papa, la pantofola. In quanto all'ignoranza di coteste badesse, con quali colori la dipingerò? Un uomo del mondo stenta a farsi un'idea dell'ingenuità con cui ne menano vanto. Una di esse, nata in Napoli e non mai allontanatasi dai contorni di questa città, affermava un crocchio di giovani monache che, sebbene entrata nel monastero all'età di 32 anni, non aveva già mai visitato il Museo Borbonico, oggi nazionale, né posto il piede nel Teatro di San Carlo, né veduto l'interno della Villa Reale. Erale ignoto, di fatto, perfino l'appariscente e centrale tempio di San Francesco di Paola. A parere di questa medesima, quanto spacciano gli archeologi intorno alla catastrofe di Pompei non era che pura fanfaluca. Pompei fu città abitata altra volta da una genia di eretici che nel mezzo del foro fecero sfracellare a forza di martello la statua miracolosa di San Gennaro. Fremente, la sovrastante montagna all'aspetto di tanta baldanza eruttò immantinente quel diluvio d'ardenti ceneri che seppellì per sempre l'eretica città. Una punizione. Presso un'altra badessa, io era stata denunziata di leggere libri mondani, ossia estranei alle materie ecclesiastiche. Spiata, a mia insaputa, fui dalla superiora stessa colta in flagrante col libro in mano. «Che state leggendo di buono, figlia mia? Lasciatemi vedere», disse ella. Non essendo più a tempo di celarmi, mi convenne porgerle il libro, non senza viva inquietudine rispetto alla giustificazione che bisognava addurne. La badessa si mise gli occhiali e, letto nel frontespizio, mi restituì chiuso il volume dicendo: «Memorie di Sant'Elena. Ah, la vita della madre di San Costantino. Quanto è calunniata sempre questa povera figliuola!» Era il memoriale di Sant'Elena di Napoleone. Poco dopo io mi assicurava che l'egregia superiora di San Gregorio ignorava il nome e la fama di Napoleone. 13. Le pazze. La privazione della libertà, l'uniformità del vivere, la monotonia delle impressioni, la frivolezza della giornaliera conversazione e, nella maggior parte delle monache che si trovano dalla fanciullezza nel chiostro, la scarsissima educazione ricevuta, fanno sì che la terza parte di loro o siano matte del tutto o fissate almeno su di qualche cosa. Questo inconveniente, provocato dalle stesse cause, è stato da lungo tempo notato anche nelle prigioni di penitenza a sistema cellulare. E se funesto alla ragion del carcerato risultò l'isolamento nei climi meno temperati dell'Europa e nei più freddi dell'America, quanto più funesto deve essere nelle regioni calde e massimamente nelle vulcaniche, dove l'uomo e la donna non possono senza danno gravissimo separare la propria esistenza dal bisogno di mantenere le mentali e corporee facoltà in attività permanente. Non è stata intrapresa ancora l'igienica statistica della clausura, sarà uno studio ferace di utili risultamenti. Nell'aspettativa di tale lavoro, mi sia permesso di segnalare qui appresso alcuni casi altrettanto degni dell'attenzione del governo che della pubblica curiosità. Una monaca, Non poteva o non voleva toccar mai la carta. Il contatto con quella materia le avrebbe procurato le convulsioni. La conversa non si dipartiva giammai dal suo fianco. Quando la padrona recitava l'Uffizio, quella le voltava le pagine. A ricevere qualche lettera doveva dissuggellare e tenere spiegato il foglio lei stessa dinanzi alla monaca, finché questa ne avesse terminata la lettura. Per essere quindi padrona dei suoi segreti, era costretta di tenere a suo servizio delle converse che non avessero appreso l'alfabeto. Un'altra, quando nei giorni festivi ascoltava la messa, cadeva in una specie di catalessia. Se una corrente di vento le avesse agitato il lembo della cocolla, mettevasi subito a brontolare, ma senza muoversi minimamente. Avvenne una volta che un'altra monaca, la quale stava le vicino, svenne e precipitò con la testa sulla sua spalla. Ella continuò a starsene immobile come se nulla fosse stato e probabilmente avrebbe lasciato andare a terra la svenuta se io e le altre monache non fossimo accorse a sostenerla e adagiarla sulla seggiola. Ho conosciuto un'altra che quando stavasi malata puntava degli spilli intorno intorno alle lenzuola del letto, poi, rannicchiatasi dove si tengono i guanciali, rimaneva ferma in quella posizione a ciò che, diceva, non si guastasse la meravigliosa simmetria del letto. Ve n'era un'altra che faceva bambolini di cenci e dondolandole al seno diceva che erano le sue figlie. Né dimenticherò due vecchie lunatiche di cui l'una discorreva sempre con Gioacchino Murat e con Ferdinando I. L'altra, nel sentire i tamburi, gridava «I francesi! I francesi!». Costei una notte si gettò nel pozzo, donde fu estratta cadavere. Ma il monastero, dove più grande è il numero delle matte, è quello delle eremite, le cui orrende e veramente braminiche austerità conducono più presto alla demenza. Questa tomba di vive fu fondata da una pinzocchera semi-alienata di mente, con l'approvazione sotto il patrocinio della Chiesa romana. Ho detto altrove, se il lettore se ne ricorda, che la conversa della zia Badessa mi aveva fatta una spiacevole impressione appena l'ebbi veduta. Di lì a pochi giorni mi confermai che quella donna aveva non so che di bizzarro, come nel carattere del sembiante, così nei modi e nelle abitudini. Angela Maria, dedita tutta all'adornamento della sua disamena persona, trascurava insoffribilmente di servire me e mia zia. Basti il dire che mi fece dormire una settimana senza mai rifare il letto. Dissi più volte alla badessa, ogni giorno svillaneggiata, perché con tanta pazienza tollerasse quella spiritata. E n'ebbi in risposta che, sgridandola con durezza, mettevasi nel rischio di esserne forse anche bastonata. Angela Maria confessavasi regolarmente il sabato e trattenevasi niente meno che 4-5 ore nel confessionale. Il mercoledì, per rinforzo di penitenza, dopo d'aver spesa un'ora nell'acconciatura, scendeva nel parlatorio, ove, per altrettanto tempo, rinnovellava gli spirituali abboccamenti col confessore. Per cagione di sì frequenti e lunghe assenze, mia zia doveva chiedere ad altre quei servizi che la sua conversa non si curava di farle. Ad ogni nuovo colloquio col confessore la diveniva più bisbetica e usava alla povera vecchia maggiori insolenze. Io amava molto mia zia e non vedeva i suoi patimenti senza rammarico. Avrei voluto mettervi riparo, ma poteva io ricorrere ad altro superiore appello, poiché nelle mani di ella stava il governo del monastero? In quel mentre passava a miglior vita l'altra mia zia, Lucrezia, e lasciava due converse che vennero al servizio nostro. Io mi presi la più giovane, chiamata Gaetanella. Angela Maria, cervello balzano, ingelositasene, mise alla tortura la badessa ogni qualvolta la trovò sola, ma non so per quale straordinaria mancanza la fu un giorno sgridata dalla mia zia nel corridoio. Io stava a quale distanza da loro, sicché non ne fui veduta. La conversa picchiò la mia zia badessa. Le diè una gagliarda botta. La vecchia barcollò e sarebbe caduta se una porta vicina non le avesse servito di sostegno. A tale vista io misi un grido e fu appunto nel momento che Angela Maria si accingeva a più grave aggressione. Volai presso alla zia, le presi il braccio e abbandonandomi a un giusto sdegno, ordinai alla conversa di ritirare immediatamente il suo letto dalla stanza della badessa e di non mettervi più piede, minacciando di rovesciarla dalla loggia nel giardino se disubbidiva. parecchie monache, attirate dalle mie grida, saputo il successo, mi diedero ragione, ma le converse attruppate al fondo del corridoio andavano sussurrando che io non aveva il diritto di farlo. Dato da bere alla zia, che tremava per l'agitazione sofferta, mi portai dalla priora a fine di pregarla che intimasse ad Angela Maria l'ubbidienza ai miei ordini. La priora vi acconsentì, talché la conversa, espulsa dal servizio della badessa, dovette prestarsi a quello della comunità. Cotesto fatto accadeva durante il periodo del mio educandato, sino a tanto che non presi il velo quella donna, incontrandomi abbassava gli occhi, masticava fra i denti qualche parola di dispetto e, se lo poteva, cangiava di strada. Ma il suo contegno entrò con l'andar del tempo in una fase diversa. Mi fu detto la sera della mia vestizione avermi essa apparecchiato un piccolo dono e voler sapere se l'avrei accettato di buon grado. Risposi che ad un fatto passato io non pensavo più. Angela Maria venne da me tutta ben vestita e adorna e mi presentò il regalo, è questo uso del monastero nei giorni di vestizione o di professione, e si estese in scuse sull'avvenimento che mi aveva crociata, secco lei. Le ripetei aver posto il tutto in dimenticanza. Da quel giorno avvenne in lei una metamorfosi. L'orso diventò agnellino. Ogni volta che mi incontrava si atteggiava di insinuante mansuetudine, chiedeva conto della mia preziosa salute, cercava l'occasione di prestarmi i suoi servigi e se io era indisposta si impadroniva della mia stanza per tenermi compagnia. Ciò nonostante i suoi discorsi mi stuccavano oltremodo e il suo sguardo equivoco mi spaventava. Ragionava ella perpetuamente del suo confessore, vagheggiava le proprie forme, il buon gusto del suo vestire e di tratto in tratto si lagnava del tradimento fattole dalle due converse della zia Lucrezia, tradimento, a suo dire, tramato ed eseguito con lo scopo di strapparle la sua diletta ragazza che ero io. Insomma, mi confermava ogni giorno più nell'opinione che il cervello di quella femmina non si trovasse nello stato normale. Di lì a qualche tempo lo sconcerto mentale dispiegavasi in modo orribile. Si alzava di notte tempo per vagare a guisa di spettro, ricusava il cibo e cadeva ora in inconsce farnetichezze, ora in cupa fissazione che si prolungava fino a 8-10 giorni. La pazzia, per mala sorte, le ispirò uno strano desiderio, quello di rientrare al mio servizio particolare, acciò che, diceva, la passata noncuranza si mutasse a suo favore in affettuosa predilezione. A tal fine non rifiniva di importunarmi, sostenendo che dovessi allontanare Gaetanella e riprender lei. Gaetanella, d'altra parte, e con più ragione, pretendeva che non dovessi più ricevere la matta nella mia stanza, e quando io le diceva «Ma non vedi che la sventurata è pazza?», ella rispondeva «Pazza? Scusatemi, è pazza per utile suo!» «Ma se adunque dissimula, a quale utile aspira?» A quella domanda Gaetanella si mordeva le labbra e serbava silenzio imperturbabile, il che veniva da me attribuito al risentimento che la muoveva contro la compagna. Anzi, ad evitare qualche conflitto fra di loro, tentai più di una volta di proibire ad Angela Maria l'ingresso nella mia stanza, ma costei, prosternandosi a me dinanzi e percuotendosi il capo con ambo le mani e strillando e piangendo, ripeteva le mille volte «Deh, non mi scacciate per pietà, precipitatemi piuttosto dall'alto della loggia!» Convinta dell'insania che l'affliggeva e che di giorno in giorno sviluppavasi, lasciai libero sfogo all'umanità né feci più conto dell'incredulità di Gaetanella. Allora fu che gli accessi di frenesia incominciarono. Era in quel tempo badessa quella donna inetta che mi aveva fatto da maestra di noviziato. L'avvertii badasse all'alienata, onde a lei medesima e all'intera comunità non accadesse qualche disastro. «Cerca tu stessa di calmare i suoi furori», mi rispose. «Ascolta meglio la voce tua». «Mi credete dunque maestra di pazze o pensate che io debba starla badare giorno e notte?» «Ah, non importa, ci penserà la Madonna», soggiunse la sciocca superiora. L'affare, frattanto, si faceva sempre più serio. A dispetto della disciplina, Angela Maria si era lasciata crescere i capelli e, deposto il velo e il soggolo, dividevasi la chioma all'uso secolaresco, dicendo di voler uscire del convento per cercarsi un marito. «Voi mi dite pazza!» Gridava nei momenti del parossismo alle monache che la circondavano: «No, non sono io la pazza per voler marito. Pazze, dementi, forsennate, non siete voi piuttosto? Voi che, possedendo giovinezza, ricchezza, beltà, e quindi potendo trovar marito più agevolmente, vi state per mancanza di consorte intisichendo in questa spelonca? Seguite l'esempio mio, seppur avete in zucca un grano di cervello, buttate via le cocolle e lasciatevi crescere le trecce». Un'altra volta, malgrado l'intenso dolore che accusava l'occipite, si componeva in goffi e sguaiati atteggiamenti, o sgambettando e scontorcendosi e crocchiando il dito medio sul pollice in modo da imitare il ritmo delle castagnette, intonava con voce stridula e dissonante le strofe di una canzonetta in dialetto napoletano. Si sa che alle monache è vietato di dormire a porte chiuse, tratto di diffidenza non molto onorevole alle spose di Cristo. Una notte mi sentii sulla fronte il contatto di una mano ruvida, credetti di aver sognato e mi riaddormentai. La notte appresso fu d'altra sorta l'impressione. Sentii cadere un bacio sulle mie labbra. Spalancai gli occhi esterrefatta e vidi l'angiola Maria che mi diceva: «Non aver paura, son io!» «Che cosa vuoi?» «Niente, non posso dormire». Gaetanella, che abitava nella mia stanza, avendo un sonno pesante, rare volte si destava. Quando io, spaventata dalla demente, la scossi, borbottò fra i denti: «Non la volete scacciare, questa birbacciona?» Indi, voltandosi dall'altro lato, riprese il ferreo sonno. Intanto divennero sempre più frequenti queste notturne apparizioni. La mia stanza fu posta in stato d'assedio. Poco a poco la folle mi fece vittima delle sue smanianti veglie. Sollevando la cortina del letto, si accomodava seminuda e scarmigliata sulla seggiola per tenermi i più strani discorsi, donde non tardai a comprendere come cagione della sua follia fosse la passione violenta concepita per il suo confessore. Implorai presso la superiora un pronto riparo. Infiacchita dalle frequenti interruzioni del sonno, snervata dall'incessante apprensione, io mi sentiva vicina a cader malata. Ma la badessa, senza brigarsene di vantaggio, mi rispondeva: «Dio ti aiuterà». Una mattina, mentre nel coro salmeggiavamo il mattutino, una conversa venne a chiamar la zia delle due educande amiche di Paolina. Ella andò e pochi minuti appresso tornò pallida e smarrita, e accostatasi alla badessa, chiese licenza di lasciare il mattutino per accorrere in aiuto delle sue nipoti che erano state percosse da Angiola Maria. Paolina la seguitò a fine di aiutare le sue pericolanti amiche. Di lì a poco la badessa, chiamatami a sé col gesto, mi impose di intervenire nella contesa per placare col mio ascendente i furori della conversa. Ubbidii, non però prima d'averle fatto osservare che ogni giorno io la supplicava di porre a quell'inconveniente un efficace rimedio. Angela Maria era chiusa a chiave nella sua cella e non voleva aprirmi. Bramosa di appurare il male che la folle aveva fatto alle educande, andai all'incontro di queste. Paolina, che stava di guardia all'uscio della stanza dove si erano rifugiate le giovinette, nel vedermi giungere, disse loro stizzosamente: «Ecco colei che ha detto ad Angela Maria di battervi». A quest'apostrofe le due educande si slanciano fuori della stanza, non altrimenti che mastini sguinzagliati. Esse non sanno più quel che si dicono. Io son fatta l'oggetto del loro risentimento». L'iniqua incolpazione mi fermò di botto. Indisposta da più giorni, urtata nei nervi da morali sofferenze, non resistetti all'inaspettata calunnia e caddi a terra dibattendomi in convulsioni. Angela Maria non aveva riconosciuta la mia voce allorché le intimava di aprire. La riconobbe nei gemiti dell'attacco nervoso, spalancò allora la porta con fracasso e uscì in camicia. Vedutami in quello stato, scostò furiosa quelle che mi stavano attorno, indi con erculea forza sollevatami nelle sue braccia mi portò sul mio letto, ove mi profuse le più tenere cure. Quando recuperai i sensi e la parola, la sgridai fortemente per quello che aveva fatto. Ella, sulle prime, mi ascoltò commossa, ma ricaduta ben tosto nel furore, si lacerò a pezzi la camicia, lo che la fece restare completamente ignuda, e andò a chiudersi di nuovo nella sua cella. L'imputazione appostami da Paolina mi aveva di molto mortificata, benché nuovo non mi fosse il disamore delle giovani monache. Per riconquistare la perduta tranquillità e ancor più scostarmi da persone cresciute e allevate nel chiostro sin dall'infanzia, per conseguenza digiune di ogni rudimento di civiltà, approfittai dell'opportunità che la matta si trovava rinchiusa per trasferire il mio letto nella stanza della zia. Io sapevo altresì che la conversa, memore tuttavia dei trascorsi dissapori, non poneva il piede giammai in quella stanza. Un'ora dopo, la pazza riapre la porta. Era vestita per metà. Entra nella mia camera, che dalla sua era separata da altre quattro, e non trovandovi più né me né il mio letto, mette orribili strida. Indi, trasportata dal furore, impugna un coltello a punta acuta e, misurando a precipitosi passi il corridoio del dormitorio, urla spaventosamente: «Hanno ucciso la mia ragazza, eh? Saranno scannate tutte quante come galline nel pollaio!» Non mi mossi dal luogo dove mi trovava. Udii le voci che mi chiamavano, ma stetti zitta. Frattanto le monache che si trovavano nel dormitorio dove la scena accadeva si chiusero spaventate al più presto. Le altre corsero dalla badessa che con reiterati messaggi mi fece chiamare dalla parte opposta del dormitorio. «Cara Enrichetta», disse nel vedermi, «tu sei la sola che recar possa un rimedio all'attuale scompiglio della comunità». «E come?» domandai. «Nessuna monaca vuol dormire stanotte al secondo piano, dove la frenetica se ne sta. Non mi farai la finezza di riportare il tuo letto nella tua stanza e farvi inoltre collocare quello d'Angela Maria? Tu, carina, te la riterrai teco né le permetterai di uscire?» «Oh, questo è troppo, reverenda!» risposi sommamente indignata. «No, non lo farò. Prima di tutto per mancanza di sonno ho un fiero mal di capo. Poi quella meschina è giunta a tal segno di alienazione da non riconoscere più la mia voce. Finalmente non darò alle malevole motivo di attribuire alle mie suggestioni ciò che farebbe la pazza nel suo furore. Su, via, non dare ascolto alle chiacchiere di qualche monella. Io e la comunità intera te ne saremmo gratissime». Opposi in giustificazione il mio malessere e infatti io avevo la febbre. La badessa concluse dicendomi: «Hai fatto il voto di ubbidienza, all'ubbidienza dissiperà il tuo malessere». Per quanto dispotica mi fosse sembrata quell'ingiunzione, dovetti, per amore o per forza, uniformarmici. Salita dunque al secondo piano, trovai Angela Maria, che stava ancora col coltello in pugno e perlustrava l'andito declamando in monologo: «Dio mio, quale orrido aspetto! Lei era una belva, una furia. I suoi occhi, schizzanti fuori dell'orbita, eseguivano le rapide evoluzioni di una sfera d'oriuolo nel punto di essere scombussolato. I capelli inestricabilmente arruffati, la bocca contorta e schiumante, le narici sbuffanti, la collera, il braccio alzato nell'atto di colpire chi primo si presentasse». Mi fermai alla porta del dormitorio, pronta a chiuderla nel caso che la pazza avesse inveito contro di me. Ero sola, nessuna aveva voluto seguirmi. La chiamai. Si volse, mi riconobbe e corse con le braccia aperte, senza però sbarazzarsi dell'arma. Chiusi la porta e ne girai la chiave. Ella ricominciò a urlare di più bello, scongiurandomi di aprire. «Getta via il coltello», le dissi di fuori, «mi fa paura». Ubbidì. Quando l'udii cadere molto lontano, aprii la porta. La pazza mi prese le mani, che strinse nelle sue, e poi le coprì di baci. Il suo stato mi mosse a pietà. Raccolsi il coltello e la sgridai. Mi promise che non l'avrebbe fatto mai più. Mi portai quindi nella sua cella e, fattomi da lei aprire i bauli, le tolsi coltelli e forbici. La misera obbediva, senza far motto. Ciò fatto, le dissi che avrebbe pernottato nella mia stanza, al quale annunzio, abbandonatasi di subito alla più stemperata esultanza, si mise a battere le palme, a ridere sgangheratamente. In un momento portò il suo letto nella mia camera, ciò che a Gaetanella fece saltar la mosca al naso. Quella donna soffriva di scorbuto, morbo frequente nell'atmosfera non abbastanza ventilata della clausura. Il sangue che davano le sue gengive era da lei creduto d'effetto di emotisi ed ogni volta attribuito alle tribolazioni che quella furba e dissimulata da Angela Maria non cessava di suscitarle. Giunse la sera, era il mese di agosto. Alle 8 suonava il silenzio. Mi posi a letto. Gaetanella e Angela Maria fecero lo stesso, promettendo quest'ultima di starsi quieta. Ciò nonostante smaniava, si torceva, si rivoltava da far pietà. Le domandai che cosa avesse. «Non posso stare nel letto», disse. «La testa mi brucia, le orecchie mi tintinnano». Balzò in piedi, schiuse la loggia e trasse un sonorissimo sospiro nell'aspirare il fresco della notte. Poi, prese a passeggiare per la camera pronunziando delle parole incoerenti. «Sposo mio, e in pari tempo mio confessore, che bella cosa! Dovrete, caro don, disimpegnarvi da due uffizi, e quella gaglioffa cerca di trappolarvi, eh? Ora dovete accompagnare il sacramento in casa di un moribondo. Non è tempo ancora. Il bacio prima. Datemi il bacio prima di andarvene!» E ciò dicendo, apriva le braccia per stringere l'oggetto della sua visione. Poi pianse un poco si smascellò di risa, un poco urlò. Dopo 2 ore di tale delirio, si ricoricò e prese sonno. Gaetanella si era pure addormentata. Io non reggeva per la gagliarda febbre. Scesi pian piano dal letto, richiusi il balcone del terrazzo e mi assopii. Una forte palpitazione al cuore, che spesso mi assaliva, mi risvegliò. Regnava nella stanza perfetto silenzio. Non si udiva che la respirazione precipitata della mia conversa. Sollevai la cortina per vedere ciò che la matta facesse. Il letto era vuoto. Mi posi a sedere sul mio. Guardai, riguardai all'intorno. Non c'era. Chiamai Gaetanella. Le dissi che Angela Maria se n'era scappata. Mi rispose: «E che mi importa? Se ne vada pure alla malora». Lasciato il letto, indossai una sottana. I panni di Angela Maria stavano sopra una sedia, le scarpe sotto il letto. Cacciai la testa dall'uscio. Il dormitorio era deserto. Uscii con precauzione e mi avviai verso la cella della matta. La chiamai per nome, non rispose. Mi intromisi in un secondo dormitorio. Era agli angoli illuminato da 2 semispenti fanali che non facevano se non aumentare la sinistra oscurità. Lì rimasi a riflettere se volgere a dritta o a manca. Risolvetti per la sinistra e lentamente avanzando mi avvicinai a uno dei detti fanali. Terminava quel dormitorio con un pozzo da un lato e una grande galleria dall'altro. Quella galleria, disabitata per causa della sua immensità, destava orrore pure anche di giorno. Pessime dipinture a fresco di santi anacoreti e di romiti vestivano le sue pareti. Santi e romiti a faccia lunga e sparuta, a tinta cadaverica, a barba sperticata, i quali per antica tradizione, e a dir delle monache, avevano parlato, camminato, suonato le campane, cantata la messa a mezzanotte, eccetera. Le gambe mi tremavano, parte per effetto di quella superstizione al cui assalto non può resistere alcuno in certe circostanze, e parte per la tema di ritrovare Angela Maria stramazzata in qualche luogo, il cui buio avrebbe resa più spaventevole la scena. Già stava per voltare dal canto della galleria, allorché parvemi veder brulicare qualcosa di bianco in vicinanza del pozzo. Mi rimescolai. Era la pazza, che scalza, scarmigliata, in camicia, guardava nel pozzo e ne misurava il fondo, per precipitarvisi. Entrambe le mani sue stavano poggiate sull'orlo e con la testa curvata faceva forza sulle braccia per rovesciarsi a capitombolo. Mandai un urlo, mi udì, si volse a guardarmi e senza più indugiare si sforzò di accelerare lo squilibrio del corpo a fine di potersi più prestamente precipitare. Io spiccai un rapido salto, estese le mani su di lei, l'afferrai per un braccio e sentii agghiacciato dal freddo. Ella si rivolge a me con occhi stravolti, ciechi d'ogni pensiero, non mi riconosce, tenta di svincolarsene come infatti si distacca, la branco per l'altro braccio che ritengo con ambo le mani e mi stringo con quanto vigore mi infonde la circostanza. Ma sento che la sua forza supera di molto la mia e già veggo la furente intenta ad addentarmi il polso. Volli stordirla per salvarla. Con l'uno dei bracci la trattengo ferma. Tuttavia con l'altro le assesto al volto un potente schiaffo. A quella percossa rientrò per un momento in sé e proruppe in alti ululati. La presi allora per la mano e la ricondussi senza più tema o fatica nella mia stanza. Lì si pose a sedere a terra, guaì ancora per un paio d'ore, poi, racconsolatasi, riprese di nuovo l'incoerente ciarla. In quel mentre Gaetanella, che turbata dai singulti della pazza non poteva riprender sonno, si alzò e uscì. Io pure mi vestii, benché intirizzita, dal freddo febbrile che mi faceva battere i denti. Sorta l'aurora, scrissi al generale Saluzzi, invitandolo a venire da me. Al vedermi tanto pallida e febbricitante, quell'amico generoso non poté a meno di amaramente condolersene. Poco appresso, si recava dal canonico Savarese, allora vicario pro tempore, e si lagnava energicamente con lui del ticchio venuto alla superiora di farmi fare la custode di pazze. Per ordine di Savarese venne a visitar la matta il dottore Cosimo Meo. Costui, nel vederla da lungi, esclamò: «Non solo è matta, ma lei pure furiosa. Chiamate tosto il flebotomo». 8 robuste converse furono appena bastanti a contenere i suoi furori nel momento che fu oprato il salasso al piede. Non cadde dentro la catinella una sola goccia del sangue, spruzzò tutto sulle converse, sul salassatore e in gran copia al suolo. Il medico ordinò che molti bagni con la neve sul capo le fossero amministrati e promise che nella giornata stessa avrebbe mandato una donna del mestiere per domare la furente. Esser del resto espressa volontà di Savarese che la badessa trovato avesse un manicomio, essendo quella pazzia, per la forte complessione della sofferente, di quella tale classe che senza mezzi violenti non si frena. Tranquillizzatami su di questo argomento, scrissi tosto al generale una lettera di ringraziamento. Il mio letto si ricollocò nella stanza della zia e fui sollecitata a coricarmi, non reggendo più in piedi. Venne la maestra delle pazze, si diedero i bagni freddi alla sventurata, ma il male infierì, chiusa dunque in una carrozza con la donna che l'assisteva, fu mandata a Calvizzano, dove un prete teneva una casa di salute per i dementi. Ma i rimedi tornarono vani anche colà, assoggettata al camiciotto di forza, non sopravvisse qualche tempo, se non per sentire nel viaggio alla morte tutti i tormenti immaginabili.